Qui a Hebron la situazione è quella di una città divisa in due. Il problema è che non è divisa come fu divisa la città di Berlino fino alla caduta del muro, come la nostra città di Trieste nelle zone A e B. Qui la divisione è molto più frustrante per la gente che ci abita. La città è divisa in due zone, l'H1 e l'H2, dove la zona controllata dalla parte israeliana in realtà non è altro che un enclave che copre tutto il centro storico. I nostri ascoltatori devono immaginarci una città come Roma, dove tutta la zona intorno a San Pietro, intorno al Trastevere, intorno a tutte le zone, diciamo, più sensibili e più commerciali, appartiene a una minoranza gestita da 500 persone e controllate da circa 2.000 militari. Il progetto che stiamo mettendo su è proprio quello di cercare di ristabilire le basi di una democrazia partecipata e dal basso attraverso l'uso dei media, per cui il primo obiettivo sarà quello della costruzione di un media center che raccoglierà una struttura che si occuperà di audio, video, ma anche carta stampata, fotografie, insomma tutto quello che può raccogliere le intenzioni e la voglia di comunicare delle persone che stanno qui. Un progetto lungo e ambizioso che durerà 30 mesi, proprio perché comunque le difficoltà sono tante. Accanto alla costruzione di un centro media ci sarà anche la costruzione di una serie di seminari e di iniziative che riguarderanno invece gli enti locali. E su questo ci tengo a precisare che, malgrado il progetto sia finanziato in gran parte dall'Unione Europea, il municipio 11 di Roma partecipa in maniera attiva alla gestione e al finanziamento di questo progetto e si occuperà proprio in gran parte dello scambio tra amministratori locali con una serie di seminari e di workshop. Chiaramente il lavoro duro sarà il lavoro di coordinamento, proprio perché tutto il progetto si svolge su diversi piani e su questo bisogna dare menzione al Servizio Civile Internazionale che si è occupato non tanto della scrittura del progetto quanto poi dopo delle difficili relazioni che si stanno stabilendo non soltanto tra i partner, forse perché è un progetto ambizioso e articolato, ma quanto anche poi con la parte, diciamo, più ufficiale che cercherà di implicare l'amministrazione della città di Hebron e gli amministratori locali.